24 mattino di Alessandro Milan. Sono le 7:31 minuti, cari ascoltatori, eccoci in diretta fino alle 9:24 mattino. Il sondaggio di oggi è dedicato all'inchiesta che vediamo da giorni sui giornali e al tema intercettazioni spiattellate ovunque. Vi chiediamo direttamente: secondo voi è giusto leggerle sui giornali? Non che sia giusto dal punto di vista del diritto, perché non c'è nulla di illegale in quello che fanno i giornali, i grandi quotidiani, nel pubblicare queste intercettazioni che sono pubbliche, perché agli atti. Ma vi chiediamo se sia giusto pubblicare stralci di conversazioni anche private. Che ne pensate? Dovete votare su radio24.it o il sole24ore.com. E poi ne parleremo alle 8:30, ma questo ovviamente è uno dei temi in prima pagina, nelle prime pagine dei giornali che andiamo a sfogliare. In primo piano. Ebbene sì, insomma, è la vicenda dell'inchiesta, della grande inchiesta sugli appalti al G8, che poi si è allargata, che ancora conquista le prime pagine con tutti gli sviluppi. Berlusconi, ai corrotti pene più alte, è il titolo di apertura del Sole 24 Ore. Letta turbato e preoccupato per le inchieste, ma il rigore all'Aquila è garantito. Per il Corriere, Berlusconi, vogliono farmi fuori. La Repubblica, Berlusconi scopre la corruzione, pene più dure, via dal PDL chi commette reati. La Stampa, giro di vite sulla corruzione. Per il Messaggero, appalti G8, Letta, sono turbato. Per Libero, vogliono spettinare Letta. E poi c'è questa parola che ricorre un po', l'ha usata Berlusconi, birbantelli. I birbantelli sarebbero coloro che si sono fatti pescare, come quel consigliere comunale a Milano con la mazzetta. Birbantello è il titolo del Riformista e c'è la foto di Cosentino, il sottosegretario all'economia, per il quale è stato chiesto anche un arresto negato dalla Camera e che si è dimesso, ma Berlusconi lo tiene. Mariuoli e birbanti è il titolo di prima pagina dell'Unità. Ci sono Mariuolo, è il Mariuolo storico, Mario Chiesa, dal cui arresto partì Tangentopoli. Birbante, in questo caso c'è la foto di uno degli arrestati, credo della Giovan Paola. Birbantelli è il titolo di apertura del Fatto. Insomma, questa parola usata da Berlusconi ricorre anche in vari commenti. Ma come detto, andiamo partendo dal Sole 24 Ore. Letta si è detto turbato in questa lettera, che tra l'altro il Sole pubblica, una lettera che ha spedito a Stefania Pezzopane, presidente della provincia dell'Aquila. Tra due abruzzesi si scrivono, anche il sottosegretario Letta è abruzzese di Avezzano, e un Letta che si dice turbato. Tante cose sentite e viste in questi giorni hanno turbato anche me, scrive Letta, come tutti quelli che nei giorni del terremoto hanno sentito lacerarsi qualcosa dentro, hanno perso per un bel pezzo la capacità di sorridere e ancor più di ridere. Nel contempo, non le nascondo, la preoccupazione che questa vicenda sia deflagrata proprio nel corso di un periodo particolare che certamente rischia di appannare la serenità del dibattito, che pure è giusto, intorno a vicende così drammatiche. Questo è l'incipit sostanzialmente della lettera che Gianni Letta ha spedito a Stefania Pezzopane. E tra l'altro al centro dell'inchiesta c'è sempre questo imprenditore Fusi, titolare di questa Baldassini Tognozzi Pontello, la BTP. E il Sole 24 Ore rivela sostanzialmente che questa BTP ha avuto in realtà un piccolo appalto, piccolo perché si tratta di 7,5 milioni di euro, per tra l'altro vinto con una gara incordata con altre imprese. La BTP ha una quota di 2,5 milioni di euro. Sostanzialmente solo una delle imprese di costruzione citate nelle intercettazioni, proprio questa BTP, compare ai lavori all'Aquila della Protezione Civile, ma si tratterebbe per l'importo anche di un lavoro minoritario e poi fatto incordata con altre imprese. Ma insomma, uno dei temi che avete sentito in apertura anche del nostro GR è questa. Berlusconi è deciso a dare una svolta sul tema della corruzione. Anche ancora dal Sole, a pagina 6, Berlusconi, via dai partiti chi commette reati, e oggi Donatella Stasio scrive: approda in Consiglio dei Ministri questo decreto con sanzioni più severe contro corrotti, corruttori, imputati di reati contro la pubblica amministrazione. Sono però sanzioni contenute entro i 10 anni, il tetto oltre il quale scatta la tagliola dell'estinzione processuale prevista dal processo breve, e ferma restando quindi anche la stretta prevista dal DDL sulle intercettazioni. Si prevede in questo decreto, sempre scrive Donatella Stasio sul Sole, un ampliamento dei casi in cui gli imputati non possono essere candidati alle elezioni amministrative. Ecco le misure che il Consiglio dei Ministri approverà, dando seguito poi a questo con un apposito disegno di legge. D'altronde, si legge da Repubblica, allarme del Premier sul voto. Subito le contromisure o l'antipolitica ci travolgerà. E a pagina 3 Francesco Bei, che firma questo retroscena, sarebbe un Berlusconi che ha detto: questa campagna dei giornali sul malaffare sta lasciando il segno sulla gente, insomma sta tornando una sorta di vento di antipolitica, tanto che bisogna reagire. Tra l'altro, chi fa una sponda, udite udite, beh, è sempre critico, ipercritico, stracritico, ma oggi dice, è triste dirlo, sentite come inizia, è triste dirlo, ma è così. Berlusconi si conferma il politico italiano più sintonizzato col sentire comune, e Marco Travaglio oggi sul suo consueto intervento sul Fatto. Perché? Dice Travaglio, il suo proverbiale fiuto, misto alle indubitabili doti di pubblicitario, l'ha portato a cogliere immediatamente lo sconquasso che nella pubblica opinione stanno suscitando gli scandali della corruzione civile SPA e le mazzette e mazzettine sparse qua e là per l'Italia. Mentre Bersani sta a Sanremo, il Banana annuncia norme più severe anticorruzione e pare voglia addirittura condizionare le candidature in campagna all'immacolatezza della fedina penale. Vabbè, si sa, Travaglio è molto duro, dice, si tratta, lo sappiamo, è uno spot, è un fumo negli occhi, però è significativo, dice che Berlusconi si conferma il più sintonizzato a capire dove va l'opinione pubblica. Questo è l'editoriale di Marco Travaglio. C'è da dire che oggi Stefano Folli, in prima pagina del Sole 24 Ore, firma un editoriale molto interessante anche per il nostro sondaggio. Il discredito e l'onestà della politica, questo è il titolo. Chi rappresenta il governo ha solo una strada davanti a sé, scrive Folli: prendere molto sul serio il racconto di un'Italia opaca e ambigua, costruita intorno a una rete affaristica che cerca e trova complicità politiche. In seguito si tratterà di definire le responsabilità penali, dove ci sono, colpire con durezza i fenomeni di corruzione, magari solo di malcostume. Si intende, le intercettazioni non rappresentano una prova, non autorizzano anatemi, giudizi sommari, sentenze mediatiche, tuttavia sono parte integrante dell'indagine e hanno avuto la funzione non secondaria di raccontare una brutta commedia umana, con il suo bagaglio di miserie e di furberie. È chiaro che nelle registrazioni cosiddette a strascico tante persone per bene sono state citate senza che abbiano commesso colpe di alcun genere, ma un dibattito sul sistema delle intercettazioni sarebbe oggi del tutto improprio di fronte al marcio che è venuto a galla. E dunque questo è appunto il tema del nostro sondaggio. È chiaro che tante persone citate, cosiddette, come dice Folli, a strascico, rischiano di essere, diciamolo, sputtanate per delle telefonate normali, però voi le volete leggere? È giusto che si sappia? È giusto, come dicono molti direttori di grandi quotidiani, che si sappia questo spaccato di un'Italia che non vorremmo, di un'Italia che tutti vorremmo diversa, almeno a leggere dai toni delle conversazioni, dallo spaccato appunto di alcune delle intercettazioni. Per esempio, sempre per quel che riguarda le intercettazioni, oggi Il Fatto sempre ne mette una con Denis Verdini, coordinatore del PDL, che sapete è un po' sotto attacco per questa relazione con questo imprenditore Fusi, il titolare di questa BTP. C'è questa intercettazione, pagina 4, Gianni Barbacetto. Verdini e Fusi parlano, sempre loro due, e gli dice Verdini: prenditi questo numero, e gli dà il numero di un cellulare, è il cellulare di Lucio Stanca, ho parlato a lungo, gli ho detto che lo chiamerai, ti riceve lui, ti dà tutte le indicazioni e cerca insomma di fare. va bene, chiamalo, dice Verdini. Lucio Stanca ovviamente è stato contattato dal Fatto sullo stesso cellulare e risponde seccamente: non ho mai avuto contatti, non ho mai visto, incontrato il signor Fusi, e chiude infastidito la comunicazione. Lucio Stanca, onorevole, è ex ministro, è a capo dell'Expo, e infatti il Fatto apre così: la cricca sull'Expo, chiamate Lucio Stanca. Oh, comunque di intercettazioni ce ne sono tanti. Repubblica: Bertolaso chiamò Anemone, che è l'altro imprenditore che è stato arrestato. Se hai bisogno vieni qui all'Aquila, si legge a pagina 9 tutta la telefonata dai verbali su Repubblica. Come detto, i giornali di centrodestra fanno un po' quadrato con Libero, che titola: vogliono spettinare Letta. C'è un duro editoriale di Belpietro, il direttore: spettinano Letta per decapitare pure il Cavaliere. Il Giornale oggi apre su altro: la droga, ma vedremo, insomma c'è un onorevole che è stato trovato positivo alla droga. Intanto Verdini avrebbe scritto un diario, così scrive Francesco Verderami, sempre molto informato della politica, notista politico del Corriere. Verdini, la sua verità in un diario: il sistema c'è ma non è illegale. Parla di Riccardo Fusi, è un amico, con lui ho condiviso tante cose nella vita, figurarsi se mi metto a rinnegare la nostra amicizia. Il mio amico Riccardo, con lui non mi sento né arrabbiato, né tradito, né tirato in mezzo, è una persona di cui mi fido, un vero imprenditore con 3.000 lavoratori alle dipendenze, mica robetta. Sono indagato per aver sostenuto una nomina che poteva interessarlo. Questo ha indotto i magistrati a pensare che ci fosse una specificità, fatto supporre un reato, ma non è così. E non nasconderò mai che a Riccardo in questi anni ho presentato il mondo, tutti quelli che mi chiedeva di conoscere, mai però per interessi personali, mai per una lira. E poi Verdini in questo diario parlerebbe così delle intercettazioni: sono una vera maialata. La trascrizione delle telefonate restituisce un tono freddo, tutto diventa piatto. Le conversazioni invece, se ascoltate, hanno in generale un altro spirito. Io nelle mie non mi ci riconosco, ricordo i colloqui con Riccardo Fusi, avevano un altro spirito, ma vanno sentite, non lette. E se ci sono rimasto io male a leggerle sui giornali, immagino la gente, ma come difendersi? Sembra di stare davanti all'inquisizione. Che ne pensate allora? Per chiudere questo argomento vi rilancio il sondaggio. Mentre Franco Zeffirelli sulla Stampa fa un'intervista dicendo: è un quadro osceno, mi vergogno di essere italiano, leggendo quello che leggo. Allora, queste benedette intercettazioni sono un modo per sputtanare la gente, oppure è giusto che vengano pubblicate perché sono uno spaccato d'Italia? Intanto, questo non è il sondaggio, ma è una domanda retorica, ve la faccio lo stesso. Oh, ma lo vorreste sapere il nome di quel onorevole che ha fatto il test antidroga, che era anonimo, volontario, l'ha fatto ed è stato beccato cocainomane? Ironie e timori, caccia tra gli onorevoli sul Corriere della Sera, test sui parlamentari, uno positivo alla cocaina. Giovanardi però dice: non sappiamo il nome, non lo sapremo mai. Non so perché si dicono i sospetti sono su una donna, forse dal tipo di capello, forse. Incredibile, perché hanno il test del capello, quindi parrebbe una onorevole, non un onorevole. E ci sono ovviamente le reazioni alla Camera. Flavia Perina: è stato un esame sciocco. La Russa: vogliamo dire tutta, a me se mi fanno... No, Bocchino: se mi fanno un test risulto positivo al sesso e al rock and roll, non certo alla droga. Maurizio Lupi: io non mi drogo e si vede nei fatti, ma non ho fatto il test. Marcello De Angelis del PDL: l'iniziativa di Giovanardi di pessimo gusto. Leoluca Orlando, che si aggira per il Parlamento: dov'è il cocainomane? Mi dispiace tanto deludere, però non sono io, non ho fatto il test. Calderoli: certo che è importante trovare questa persona, oltre che drogato è proprio deficiente, perché si è sottoposta a questo test ed è stato pure beccato drogato, nel senso che il test era assolutamente volontario, tanto che il Giornale titola in prima pagina l'apertura: onorevole drogato e fesso. Resi noti i risultati dei test ai quali si sono sottoposti 232 parlamentari, quelli che sapevano di rischiare qualcosa hanno rifiutato l'esame. Questa è la l'accusa del giornale, tranne uno, il fesso, quello che, o la fessa, visto che pare che sia una donna. E il quotidiano nazionale intervista Cosimo Mele, quello che fu beccato con una escort in una notte di passione, si dimise, che ora ride. Io l'ho sempre detto che ne girava di droga, direi in molti gruppi, ma non di tutti. Mi sono dimesso per molto meno, ho fatto outing, io sono solamente un adultero, ma la cocaina non mi appartiene, non ho mai preso droga. Però vedete, la droga gira tra i politici e tutti sanno. Vabbè, ci fermiamo per il traffico, tanto non lo scopriremo mai chi è questo onorevole o questa onorevole fessa. In primo piano. Incentivi e fondi europei più mirati, questo leggiamo a pagina 3 del Sole 24 Ore, perché oggi è l'iniziativa di Confindustria che a Bari in un convegno lancerà nuove proposte per la ripresa, le vie della ripresa, e si parlerà del mezzogiorno, il rilancio del mezzogiorno. Tra l'altro ricordo che poi in Focus Economia oggi alle 17 Sebastiano Barisoni ne parlerà a lungo. Come rilanciare il mezzogiorno, vi segnalo anche un'intervista a Cristiana Coppola, che è la vicepresidente di Confindustria con la delega proprio per il mezzogiorno. Basta gli aiuti a pioggia, ora ci vuole una cabina di regia, quella cabina di regia da tempo annunciata dal governo, che dovrebbe avere un ruolo di coordinamento dell'attività degli enti locali, dice la Coppola. E poi appunto basta con gli aiuti a pioggia, con la necessità invece ai meridionali, l'invito a chi ha ruoli di responsabilità di politica, economia, amministrazione pubblica, di non aspettare più interventi, aiuti, ma agire per il bene del nostro territorio. Ma se ne parlerà oggi a Bari. Voglio rimanere sul Sole, ma anche sulla Stampa, perché curiosamente ci sono due pagine, un'intera pagina sul Sole e due sulla Stampa sullo stesso tema. Voglio partire leggendo l'articolo del Sole 24 Ore di Jeremy Grant e Michael McKenzie. Il trader è una vera macchina da ordini. Un giorno di 3 anni fa, alla borsa di New York, poco dopo l'ora di pranzo, cominciarono a succedere cose strane. Arrivò un'inondazione di messaggi di compravendita con una serie di ordini emessi e simultaneamente cancellati. Un volume di messaggi inviati era talmente consistente che il traffico in ingresso da parte di migliaia di altre società di trading subì un rallentamento, penalizzando gli scambi di 975 titoli in listino. Il caso è stato reso pubblico solo il mese scorso, quando il comitato della borsa di New York ha multato il Credit Suisse per non avere supervisionato in modo adeguato un algoritmo sviluppato e gestito dall'ufficio che ha il compito di comprare e vendere titoli usando il denaro della banca invece che i fondi dei clienti. Questo è il tema, cioè si stanno sempre più diffondendo nelle borse coloro che usano, o imprese o privati, non che comprano e vendono con, mettendo lì una persona che fa queste operazioni, ma usando degli algoritmi, cioè algoritmi, programmi, diciamo, di computer che sono sempre più diffusi e servono automaticamente a capire quando comprare o vendere azioni. C'è anche un'intervista a Massimo Capuano, vale a dire l'amministratore delegato della Borsa di Milano fin dai tempi della sua privatizzazione. Perché ne parlo? Perché oggi sul Sole 24 Ore c'è questo tema ed è affrontato anche in un'inchiesta sulla Stampa di 2 pagine, la borsa del futuro, tutta casa e algoritmi. Pare che non sia ancora diffusa questa tendenza, così diffusa in Italia, ma si sta diffondendo sempre più, vale a dire il trading automatico tra i piccoli investitori. Ovviamente il rischio qual è? Dietro l'angolo, perché come spiega in un'intervista proprio alla Stampa Pier Giorgio Di Freddi, cioè il celebre matematico, la macchina è sempre una macchina e quindi può anche compiere degli errori, come avvenne al Credit Suisse con questo algoritmo che si può dire impazzito e che mandò in tilt la borsa di New York, e oggi si è scoperto solo 3 anni dopo. Certo, gli algoritmi ci sfuggono di mano, dice Di Freddi. A quella velocità di calcolo, anche se siamo noi a impartire il primo comando, presto non siamo più in grado di controllare le decisioni. Tanto che, ricorda Pier Giorgio Di Freddi, una delle prime decisioni automatiche errate, potenzialmente disastrose della storia, si deve al sistema di difesa americano, che segnalò un attacco sovietico inesistente. E la guerra non ci fu perché una telefonata a Mosca: state attaccando? tornarono insomma alla buona vecchia chiacchierata per verificare. Comunque molto interessante, due pagine sulla Stampa, una pagina sul Sole, sul trading automatico, su questa diffusione sempre di più di utilizzare algoritmi per gestire la compravendita delle azioni in borsa. Vi segnalo solo poco, perché ne parlerà poi Oscar Giannino alle 9, in 9 in punto, la vicenda della TAV, 20 poliziotti feriti, sono stati gli scontri, il Corriere della Sera ci ritorna con una pagina, tra l'altro pare ci fosse anche un ex di prima linea in corteo, il commissario Virano, quello che è il presidente dell'Osservatorio Tecnico sull'Alta Velocità, dice: ormai sono rimasti pochi irriducibili, ma i più arrabbiati, i duri, che vogliono lo scontro, a sostenere sostanzialmente il no TAV. Il Manifesto ci fa la pagina, la prima pagina, c'è una foto di no TAV con un incendio in corso a ferrovia e fuoco. Perché ne parla Oscar Giannino? Parla della difficoltà di fare le opere in Italia. Ne parla alle ore 9. Immagino anche, non so, di nucleare, ma certo la TAV in primo piano. Le due segnalazioni conclusive, Santoro Rai, si tratta la buona uscita. C'è su Italia Oggi questa indiscrezione, pare che ci sarebbe un tentativo di una buona uscita da Nababbi, viene definita così da Italia Oggi, per cercare di togliere Santoro dalla Rai. Si tratta la buona uscita, è l'ultima disperata missione del direttore generale Mauro Masi. E infine, Harry, mi devi un miliardo. E la nuova accusa non è la prima volta, ma J.K. Rowling è stata accusata di plagio nello scrivere l'ultimo libro della saga di Harry Potter. Gli eredi di un tale Adrian Jacobson, australiano, uomo d'affari milionario col pallino della scrittura, travolto dalla crisi finanziaria, morto 10 anni fa in miseria, sostengono che il libro dal titolo Le avventure di Willy il mago, autopubblicato da questo australiano, presenta significative analogie con Harry Potter e il calice di fuoco, uscito nel 2000. E quindi causa milionaria, non so quanti soldi hanno chiesto, la J.K. Rowling si è già detta indignata, non ho mai letto il libro di cui mi si accusa di aver copiato, né alcun libro di quell'autore, promette battaglia sicurissima di vincere, come già fece una volta quando l'americana Nancy Stauffer era andata in tribunale dicendo: mi ha copiato tutto dal mio la sagra di Larry Potter, non Harry, ma Larry Potter, ma in quel caso J.K. Rowling, la potente diventata J.K. Rowling, vinse la causa di plagio, di tentato plagio. Ci fermiamo con la rassegna stampa, votate su radio24.it il sondaggio, le intercettazioni le volete sui giornali, sì o no? Eccoci alle 8:18 minuti, ben ritrovati, 24 mattino, l'economia. Soldi e dintorni. O bisognerebbe dire la gastroeconomia. Perché dai, non mi anticipare l'argomento che volevo fare. Io ieri ne ho parlato in rassegna stampa, ma secondo voi si faceva sfuggire l'occasione di parlare di cibo? No. Anche stamattina. Allora, facciamo così, prima di svelare il mistero sull'argomento, ti faccio ascoltare questa voce, sentiamo se la riconosci. Ho rovinato tutto. Sentiamo. La pizza margherita, la pizza napoletana, che è una specialità tradizionale garantita, che da una settimana, dopo grandi battaglie in Europa, ha avuto questa tutela, quindi significa che in tutta Europa è protetta, 35 cm di diametro, uno spessore di massimo 4 mm nella parte centrale, 1-2 cm di cornicione, mozzarella di bufala DOP, pomodoro San Marzano, basilico e poi chi volesse, è previsto nel disciplinare, aglio e anche origano e ovviamente olio extravergine d'oliva. Allora, la notizia chi era? È il ministro Zaia. Il ministro Zaia alla prova del cuoco e per fortuna non si parlava d'altro. No, per carità, non riapro questa parentesi. Ecco. Era il ministro Zaia alla prova del cuoco a metà dicembre, parlava di questo disciplinare nuovo che riguarda la pizza, peraltro non sapevo che il bordo della pizza si chiamasse cornicione, ma insomma dalla pizza ci sono tante cose da raccontare. Allora, questa mattina parliamo soprattutto di questo bollino di qualità che le pizzerie italiane che la produrranno e la confezioneranno secondo determinati criteri potranno d'ora in avanti esporre. Quali le garanzie per i consumatori? Buongiorno al dottor Massimo Di Porzio, direttore generale dell'associazione Verace Pizza Napoletana. Chi più di lui può darci tutti i dettagli su questa importante novità? Di Porzio, buongiorno. Buongiorno. buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori. Allora, Alessandro Milan si riferiva a questa notizia che ha letto ieri sul Sole 24 Ore, ma se ne parla già da un mese almeno. Bollino qualità dell'Unione Europea per la pizza napoletana. Noi abbiamo già qualche settimana fa parlato del bollino sul pane, che è un'iniziativa dei panificatori italiani. Per la pizza c'è però uno scenario simile. Noi ci siamo chiesti cosa può insegnare l'Unione Europea ad un napoletano su come fare la pizza, ma in realtà questa è, come dire, un'iniziativa che arriva direttamente da Napoli, di Porzio, questa del bollino alla pizza italiana. Sì, assolutamente. Diciamo che noi come Associazione della Pizza Napoletana da 25 anni portiamo avanti questo discorso, diciamo, di tutela e di, anche di promozione in un certo senso della pizza napoletana. Quindi l'STG per la pizza napoletana rappresenta un punto, diciamo, di arrivo per 25 anni di attività, ma anche di partenza, io credo, perché insomma ci sono anche tutta un'altra serie di cose da fare. STG sta per specialità tradizionale garantita. Da quando le pizzerie italiane che produrranno la pizza secondo determinati standard potranno apporre sulle loro vetrine questo marchio, Presidente? Allora, diciamo che verso fine febbraio dovrebbe iniziare l'attività delle società di certificazione, in quanto, e questo devo dire la verità, è un po' con un rischio, perché infatti io ho letto anch'io ieri con una vena un po' polemica questo articolo sul Sole. Dico nel senso che la pizza è una combinazione di prodotti, quindi rispetto a tutti gli altri prodotti di qualità certificati ha maggior rischi in termini, diciamo, poi di verifica effettivamente del prodotto. Quindi in un certo senso il rischio è che possa essere poi il controllo, esclusivamente un controllo di tipo cartaceo. Addirittura si parlava di controllo basato sull'autocontrollo, quindi noi in questo, essendo, diciamo, i promotori del disciplinare, punteremo un po' i piedi, cioè sarà necessario che il controllo sia effettuato anche sul processo di produzione, certo, non solo sul cartaceo. Allora, ci faccia capire, per essere sicuri anche come consumatori, intanto la pizzeria che volesse esporre questo marchio cosa deve fare e come possiamo vigilare come consumatori, e poi soprattutto ci deve dire la pizza che caratteristiche deve avere, in modo tale che anche magari dal gusto si possa capire o meno se è, come dire, confezionata e prodotta secondo gli standard e questo disciplinare STG, Presidente. Certo. Diciamo che in generale la pizzeria deve utilizzare la metodologia napoletana, cioè noi diciamo quindi effettuare le caratteristiche, fondamentalmente sono quattro, cioè in primo luogo non aggiungere grassi o zuccheri all'impasto, in secondo luogo la lievitazione che deve essere, diciamo, naturale per così dire, cioè una lunga lievitazione con una bassissima aggiunta di lieviti, o addirittura c'è anche chi effettua la lievitazione naturale, cioè quella effettuata, diciamo, col criscito. La manualità, cioè nel senso che non devono essere utilizzati presse, mattarelli, eccetera, perché solo la manualità garantisce proprio la formatura del cornicione. Io sentivo che lei prima non sapeva che si chiamasse cornicione. Esatto. In realtà il cornicione è una delle caratteristiche, perché il movimento delle mani garantisce lo spostamento dell'aria dal centro verso l'esterno, e quindi si forma questo cornicione che poi contiene i condimenti della pizza. Poi è delizioso, peraltro, Presidente. C'è chi magari la preferisce molto sottile, a me piace un pochino più cicciottina. Diciamo che il cornicione poi è fatto sostanzialmente di alveolature, cioè di aria, perché tutta questa aria che si sposta all'esterno, e quindi nel momento in cui si cuoce la pizza si gonfia. E quindi, diciamo, è proprio una delle caratteristiche, diciamo, il cornicione è una parola napoletana, per così dire. Però, insomma, è molto chiaro a che cosa si riferisca. Presidente, non è che sarà... E poi, infine, chiaramente la cottura in un forno a legna, cioè che deve essere esclusivamente a legna, perché solamente il forno a legna garantisce, diciamo, tre modalità di cottura, che io le dico, diciamo, anche se entriamo un po' nel tecnico, però sostanzialmente la pizza si cuoce per conduzione, quindi sul piano, perché in quanto c'è la legna sul piano e quindi la pietra refrattaria trasferisce il calore alla pizza dalla base, per irraggiamento, perché il calore si spigiona, diciamo, all'interno della volta, e conduzione, perché chiaramente essendo la camera del forno a una temperatura più alta rispetto all'esterno si forma una vera e propria convezione, come avviene nei forni, diciamo, quelli di tipo industriale, quindi l'aria gira. E queste, diciamo, queste tre caratteristiche sono irripetibili, diciamo, in un altro forno. No, quindi... tra l'altro capisco anche le sue, come dire, perplessità sull'aspetto dei controlli, visto che gli standard sono assolutamente accurati e specifici. Certo, è chiaro che il tema del controllo è molto prodotti, perché infatti... sono tanti, cioè è un processo più, diciamo, dei prodotti specifici. sacrifici, cioè quindi non vorremmo che poi dopo tanto lavoro, tanti anni di sacrificio siano in un certo senso sviliti da dei controlli sostanzialmente cartacei. Allora, quindi, poi magari ci torneremo, Presidente, su questo argomento. 22.000 pizzerie in tutta Italia, secondo lei quante si adegueranno al nuovo standard e soprattutto sulla base dell'arrivo di questo bollino? Già da tempo molti millantatori, se non sbaglio, l'ho letto sul vostro sito, espongono il marchio, il bollino STG. E allora, intanto, chi ce l'ha già, sappiate che non è possibile che questo che il bollino ce l'abbiano, perché non è stato ancora avviata in sostanza la procedura per il marchio. Assolutamente, noi su questo anche ha fatto benissimo a dire questo, perché noi cerchiamo appunto di dare informazione, perché c'è molta disinformazione, devo dire la verità, sull'argomento. In un certo senso il logo STG non è obbligatorio, cioè chiunque vorrà continuare a fare la pizza napoletana come la faceva prima e anche a scriverlo sul menù pizza napoletana potrà farlo, non potrà scrivere pizza napoletana STG a meno che non effettua questa procedura di certificazione con uno dei 30 certificatori indicati nel disciplinare. Quindi in un certo senso chiunque aveva scritto sul menù o aveva messo, addirittura c'era qualcuno che aveva già messo gli adesivi con il marchio STG. Non esiste adesivo ufficiale. Cosa? Non esiste ancora nessun adesivo ufficiale. Assolutamente no. Dopo il 25 febbraio inizierà questa attività di certificazione. Quindi al momento non ce n'è. Devo salutarla perché il tempo a nostra disposizione è scaduto. 10 secondi, non è che la farete pagare di più, no? Che le pizzerie saranno autorizzate con il ballino a farla pagare di più al ristorante o in pizzeria? Assolutamente no, è semplicemente una certificazione di un processo e quindi una garanzia per il consumatore. Benissimo, grazie a Massimo Di Porzio, direttore generale dell'associazione Verace Pizza Napoletana e anche presidente dei ristoratori napoletani. Alessandro, vado via subito. No, alle 12. A Salvadanaia abbiamo, allora, nel pieno di una crisi molto importante si celebra un anniversario, 10 anni dalla bolla speculativa, dalla bolla internet, dalla bolla high-tech, e quindi ripercorreremo un po' il panorama degli investimenti in questo lasso di tempo. Le 8:32 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Le notizie in primo piano: le norme sulla corruzione saranno inasprite, dice Berlusconi, oggi approderanno in Consiglio dei Ministri le prime misure al riguardo. Non c'è comunque un ritorno di Tangentopoli, secondo il Premier, che ha aggiunto: i birbanti sono ovunque. Per la cronaca, 20 giorni di prognosi per il giovane rimasto ferito in Val di Susa negli scontri tra forze dell'ordine e No TAV. Negli incidenti feriti anche 20 poliziotti, e vi ricordo che di infrastrutture e della difficoltà di costruirle si occuperà alle ore 9 Oscar Giannino. Per il calcio, infine, con l'Europa League, nell'andata dei sedicesimi la Juventus vince 2-1 ad Amsterdam contro l'Ajax, mentre la Roma perde 3-2 ad Atene con il Panathinaikos. Ora ci saranno le gare di ritorno. E allora, alle 8:33 minuti, parliamo delle intercettazioni, delle tante intercettazioni che troviamo sui giornali, un po' ovunque, legate all'inchiesta sugli appalti, nel nostro sondaggio di oggi. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero, il sondaggio di Radio 24. Vi chiediamo semplicemente se secondo voi è giusto leggerle sui giornali, leggere tutto sui giornali. Devo dire che su radio24.it state votando in molti, o il sole24.com, il 63% di voi dice per ora è giusto, anzi il 64%, devo aggiornare. Intercettazioni se ne leggono molte anche oggi. Intanto voglio salutare Fiorenza Sarzanini, inviato del Corriere della Sera. Buongiorno, ben ritrovata Fiorenza. Buongiorno a voi. Anche oggi se ne leggono, per esempio, tu scrivi: l'inchiesta oggi è una svolta. Un'altra intercettazione di oggi, di una Vincenzo Di Nardo, amministratore delegato della ditta toscana BTP, che parla con un architetto e dice: questi sono banditi, è gente che prima o poi si leggerà sui giornali che li hanno cuccati con qualche tangente in mano. Si riferisce ovviamente alle persone arrestate. Allora, chiariamo intanto una cosa, Fiorenza: queste intercettazioni sono sui giornali ed è un qualcosa di illegale oppure nella perfetta legalità? Cioè, possono starci sui giornali? Sì, possono starci, tanto che il governo ha annunciato che farà approvare al più presto il disegno di legge, che è già passato alla Camera un po' di mesi fa, poi era andato al Senato ed era stato accantonato, che invece ne vieta la pubblicazione. Il Corriere della Sera un paio di giorni fa, in un fondo non firmato, dunque io penso sia attribuibile comunque al direttore, comunque alla linea editoriale, si è posto il problema, cioè il Corriere sta pubblicando da giorni queste intercettazioni, ponendosi anche il problema delle persone che cosiddette in questo modo a strascico vengono coinvolte perché magari citate, con il rischio anche che non c'entrano per nulla ma finiscono sui giornali. Ma, ed è anche la linea oggi ribadita da Stefano Folli sul Sole 24 Ore, è un modo per chiarire qual è lo spaccato di una certa Italia, e questo è il motivo che spinge, oltre al dovere giornalistico, di pubblicare tutto? Sì, non è vero. Secondo me il dovere giornalistico non è quello di pubblicare tutto. Noi dobbiamo tenere conto che qui c'erano 20.000 pagine da leggere e da analizzare e dunque da scegliere. E il Corriere per esempio ha fatto la scelta di pubblicare tutto quello che era appunto di interesse, non soltanto penale, però anche diciamo di opportunità. Per esempio le intercettazioni con dei dirigenti di altri enti, possono essere la RAI piuttosto che l'ENAC, noi abbiamo scelto di pubblicarle proprio per mostrare quale sia diciamo questa rete che poi si scambia favori, tu mi dai un appalto, io ti assumo il figlio, quindi diciamo sempre un malcostume, comunque un comportamento che anche se non arriva nel penale è un comportamento che diciamo discutibile, soprattutto per funzionari di enti pubblici. Il Corriere ha scelto di pubblicare per esempio solo le intercettazioni dirette, quindi noi non abbiamo mai pubblicato intercettazioni di persone che parlano di altri, se non in casi appunto per raccontare poi gli accordi, sì, che loro prendevano queste, diciamo, persone indagate, ma intercettazioni diciamo dirette tra gli indagati e altre persone. Questo non vuol dire che le altre persone sono indagate, ripeto, o che siano per forza nell'inchiesta, però quelle che in qualche modo danno lo spaccato di un mondo che queste persone avevano creato e allora, di cui sfruttavano diciamo le competenze. Tra l'altro, nel presentare i miei due ospiti politici, voglio citare quello che oggi Denis Verdini, che non rilascia interviste, il coordinatore del PDL, ma secondo Francesco Verderami, sempre sul Corriere, sta scrivendo tutto in un diario, ha scritto così delle intercettazioni Verdini: sono una vera maialata, la trascrizione delle telefonate restituisce un tono freddo mentre bisognerebbe ascoltarle. Se ci sono rimasto io a leggerle sui giornali, immagino la gente. Come difendersi sembra di stare davanti all'Inquisizione. Saluto l'onorevole Gaetano Pecorella, buongiorno del Popolo della Libertà. Buongiorno a voi. Così come il senatore Francesco Pardi dell'Italia dei Valori, buongiorno senatore. Buongiorno. Ben ritrovati entrambi. Allora, onorevole Pecorella, sono una maialata, come dice Verdini, cioè un modo per, diciamo questo altro termine, giusto così, per sputtanare le persone, leggere sui giornali tutto questo? Beh, certamente è un'espressione toscana di Verdini. Diciamo che sono un grande problema, perché da un lato sono uno strumento assolutamente essenziale per poter fare le indagini. Io come presidente delle Ecomafie mi rendo conto che senza intercettazioni molti fenomeni gravissimi che riguardano l'ambiente, che riguardano la salute e la criminalità organizzata non sarebbero stati mai individuati, quindi bisogna stare molto attenti a mettere paletti troppo seri, troppo difficili alle intercettazioni, però dall'altro non si deve dimenticare che le intercettazioni sono in funzione dell'accertamento di fatti di rilevanza penale e che proprio secondo anche il codice attuale le intercettazioni che non hanno rilevanza dal punto di vista della prova di un reato dovrebbero andare immediatamente distrutte, seppure dopo un'udienza con le parti. Quindi l'effetto negativo, l'effetto grave che si ha pubblicando tutto e che alla fine diventano tutti indagati, e cioè che tutti coloro che in un modo o nell'altro finiscono sul giornale, sia pure per fatti di scarsa moralità pubblica, diventano poi a loro volta soggetti che hanno partecipato ai fatti gravi che per altri indagati invece sono stati accertati. Cioè dice secondo l'opinione pubblica diventano indagati, certo, perché, cioè vengono... che diventa poi il tribunale più pericoloso, il tribunale anche più severo, quello dell'opinione pubblica, la quale leggendo di certi soggetti che hanno fatto determinate dichiarazioni attraverso il telefono non può non abbinarli invece a coloro che sono anche resi responsabili gravi reati. Sì. Quindi questo è il nodo più difficile nella scelta dell'interprete. Allora, vediamo perché molti ci chiedono: no, ci vuole la totale trasparenza, dovrebbero pubblicare essendo politici o persone pubbliche anche quando e come respirano. Senatore Pardi, la voglio far arrabbiare. Così la voglio far mettere di pessimo umore già al mattino, ma probabilmente già ieri sera si è messo di pessimo umore. Quando avrà acceso avrà seguito il TG1. So che... no? E che cosa... Le faccio ascoltare Minzolini, ma tanto lei l'avrà già sentito, no? Sì, Minzolini l'ho già sentito. Vabbè, la voglio far riarrabbiare. Sentiamo il direttore del TG1 Minzolini che ha detto sulle intercettazioni. Ma è possibile che un uomo sia giudicato sui brogliacci di intercettazioni telefoniche che finiscono sui giornali? È accettabile che sui quotidiani siano pubblicati, come se fossero prove inoppugnabili, conversazioni piene di omissis o corredate da commenti di un pubblico ufficiale all'insegna del parebbe, sembrerebbe? Le intercettazioni sono strumenti di indagine, ma non sono prove. I primi a saperlo sono i magistrati. Quando si parla al telefono si usa un linguaggio diverso da quello che si userebbe davanti ad un pubblico ufficiale. Non si può però condannare una persona per un aggettivo se non c'è una prova. Ma se questo è valido in un tribunale, non lo è in quella sorta di condanna mediatica che scaturisce dalla pubblicazione di un'intercettazione. Quella arriva subito ed è senza appello. E ha sentito allora, Pardi. Senta, io le potrei rispondere in questa maniera. Senta queste frasi. Se noi avessimo raccontato di più la vita privata dei leader politici non saremmo arrivati a Tangentopoli. Forse li avremmo costretti a cambiare oppure ad andarsene. Non è stato un buon servizio il nostro fair play, abbiamo peccato di ipocrisia. La distinzione tra pubblico e privato è manichea. Un politico deve sapere che ogni aspetto della sua vita è pubblico. Se non accetta questa regola, rinunci a fare il politico. Questo è Minzolini il 29 ottobre del 1994. Che dice, quindi ha cambiato idea, insomma. Io capisco l'obiezione di Pecorella, sì. Però per salvaguardare le persone che non c'entrano non si può stendere un velo pietoso su quelle che c'entrano. Io penso che è sempre meglio sapere tutto piuttosto che non sapere niente. Questo anche se, facciamo un esempio, il famoso massaggio. Dovesse poi essere accertato che si è trattato di un massaggio terapeutico, lei non crede che in questo Bertolaso per gran parte dell'opinione pubblica sia già stato a mignotte? No, no, no, io penso di no. Le persone seguono le notizie, poi tra l'altro Bertolaso è il beniamino dell'opinione pubblica, quindi secondo me nei confronti di Bertolaso c'è, diciamo, una indulgenza giustificata anche dal fatto che lui si è sempre dato molto da fare, no? Secondo me non, questo rischio secondo me non c'è. Invece secondo me c'è un altro rischio, proprio nella personalizzazione, glielo voglio dire con semplicità. Questo caricare i toni sulla questione sessuale del massaggio e sulla persona di Bertolaso fa scomparire la cosa più importante, è che il ministero, il super ministero senza limiti e senza controllo costituito dalla Protezione Civile SPA, che è una cosa oscura i cui fondi sono ignoti, i cui rendiconti saranno ignoti, che non c'è cioè più, una però disponibilità di potere immensa nelle mani esclusive del duo Bertolaso-Berlusconi, cioè nelle mani di Berlusconi. Vabbè, ma la SPA non ci sarà più. Comunque su questo non c'è dubbio, cioè che non siano più gravi, diciamo, le contestazioni di reato altre rispetto a quelle dei massaggi, una certa pruderie che si è letta sui giornali, su questo siamo d'accordo, certo, insomma, sono più gravi, è più importante andare a vedere gli appalti, cosa si è fatto, cosa non si è fatto. Allora io devo andare a dare le informazioni sul traffico, poi ci sono molti messaggi che arrivano anche per Fiorenza Sarzanini a dire: ma no, è illegale, chiarite questo punto, magari ci ritorniamo, insomma, perché per chiarire una volta per tutte, insomma, che queste intercettazioni sono agli atti depositate, sono state consegnate alle parti, avvocati, e dunque sono di dominio pubblico. Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero, il sondaggio di Radio 24. Allora vi chiediamo se sia giusto pubblicare sui giornali le intercettazioni, se lo trovate giusto. Intanto Fiorenza Sarzanini, siccome arrivano messaggi a dire: ma no, finché non c'è la chiusura delle indagini si possono pubblicare solo riassunti, lo vogliamo richiarire una volta per tutto in che situazione siamo per quel che riguarda la possibilità di pubblicare? A parte che questa è la nuova legge, questi sono atti depositati alle parti e quindi sono tutti pubblicabili. Io volevo dire una cosa piccola, una precisazione. Sì. Noi non abbiamo pubblicato i massaggi per pruderie. Noi abbiamo pubblicato i massaggi perché, siccome Bertolaso è accusato di averli fatti nel centro estetico dell'imprenditore che poi ha preso gli appalti sul G8 sì. della Maddalena, sono una delle, diciamo, contropartite. Non ci sono solo le mazzette per provare che un appalto è illegale o è stato dato secondo criteri non legali. Uno potrebbe aver preso, e infatti in questo momento non sono provati neanche per gli arrestati la dazione di denaro, ma favori, soldi, viaggi in idrovolante, prostitute. Anche De Santis è in carcere perché è accusato di aver preso favori e prostitute, quindi non è una questione di pruderie. No, in quei casi sono un po' più esplicite. Sì. In quei casi sono un po' più esplicite le intercettazioni. Nel caso di Bertolaso, effettivamente, perché no. Bertolaso lo aveva negato, e quindi agli atti c'era invece questa. C'erano queste intercettazioni che sembrano provare il contrario. Sì. In ogni caso, sentiamo due ascoltatori prima di tornare dall'onorevole Pecorella e il senatore Pardi. Matteo da Milano, che ne pensa? È favorevole o contro? Buongiorno a tutti. Io sono assolutamente contrario con la pubblicazione delle intercettazioni. Spiego meglio il mio punto di vista. Ritengo che le intercettazioni siano utili. Infatti, sì, come diceva prima l'onorevole Pecorella, grazie ad essere state compiute importanti operazioni di polizia. Ma è la pubblicazione delle stesse, soprattutto prima che la fase del processo sia conclusa e che ci sia stato un giudizio, e questo ritengo che sia sbagliato. Ma sbagliato perché? Cioè, non è dovere di un giornale informare, guardate che alcune posizioni, alcune persone che hanno ruoli chiave nel nostro paese, sentite di cosa parlano. Cioè, i giornali non è che fanno un processo, ma informano, devono però, informare l'opinione pubblica. Però spesso le parole vengono fraintese, spesso sono decontestualizzate, e a differenza di quello che diceva prima il suo ospite, non Pecorella l'altro, chi subisce la gogna mediatica, se poi si scopre innocente, ma quando mai sui media avrà lo stesso risalto? Non viene risarcito, quando è stato lapidato. Va bene, la sua posizione è chiara, grazie Matteo. Vuole andare a Pisa da Lara. Sì, buongiorno. Dica. Ma io non sono d'accordo con Matteo, anche se capisco, cioè il problema me lo pongo anch'io di effettivamente di avere una notizia certa, e quindi proprio per questo io vorrei sapere tutta l'intercettazione, è chiaro quello che riguarda il pezzo, però vorrei averla tutta l'informazione, non semplicemente un riassunto, perché vorrei essere io quella che poi valuta effettivamente se questa notizia mi interessa. Quindi lei vuole tutto, lei vuole tutto. Lei vuole tutto e poi si fa un'idea. Mi faccio un'idea, è chiaro, cioè se l'intercettazione parla, non lo so, della spesa, di dove andare a fare la spesa, è chiaro che il pezzo va tagliato. Certo. Ma l'informazione relativa alle cose vero o male che riguardano la gestione del lavoro, dell'attività. Sì, lei quelle le vuole sapere. Io vorrei saperlo perché vorrei essere messa in condizione di sapere le persone che sto votando, come stanno facendo un lavoro che fanno per conto mio. Va bene, grazie Lara. Vorrei tornare dall'onorevole Pecorella. Lei ha detto che le intercettazioni sono importanti fissarne paletti troppo stringenti non va bene. Secondo lei questo disegno di legge approvato alla Camera e che forse, insomma, per il quale insomma si discuterà in Senato, fissa troppi paletti stringenti? Ma guardi, io credo di sì, perché prevede che le intercettazioni possono essere compiute in genere, salvo per alcuni gravi reati di terrorismo e di criminalità organizzata, solo quando vi siano evidenti indizi di colpevolezza. E francamente le intercettazioni debbono partire, che hanno una funzione, come dire, di apertura delle indagini, per consentire che le indagini vadano a individuare fatti, persone, eccetera. Le intercettazioni servono proprio per arrivare agli indizi gravi di colpevolezza. Quindi io credo che questa formula vada modificata. Come? Però, cioè, perché ci sta dando la notizia. Lei, voglio dire, onorevole PDL, è avvocato di Berlusconi, è un po' critico. Io credo che sia un po' come il pendolo, cioè che gli eccessi da una parte tendono poi a provocare eccessi dall'altra parte, e cioè che alla fine si trovi poi un punto di equilibrio, e il fatto che siano rimaste ferme per un periodo abbastanza lungo al Senato è perché evidentemente si sta rimeditando su questo aspetto. Ma il problema non è che siano fatte le intercettazioni, perché uno spazio largo di indagine deve esistere, perché il problema è che poi sono pubblicate e soprattutto che non si procede prevede alla segretazione come dovrebbe essere, e cioè come dovrebbe prevedere la legge, che siano conservate sotto responsabilità del pubblico ministero e che si distruggano tutte quelle intercettazioni, come peraltro già prevederebbe la legge oggi, che non hanno nulla a che vedere con la prova di un fatto di illecito penale. Tra l'altro, tanto per chiarire se si possono pubblicare o meno, vi sono due norme molto chiare nel nostro codice. Una è il 114 della procedura penale, che dice che è vietata la pubblicazione anche parziale degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano terminate le indagini preliminari. Quindi persino le pubblicazioni già note alle parti non sono più coperte dal segreto, ma se ne vieta la pubblicazione sino al termine delle indagini. Però qui sono finite le indagini. Le indagini finiscono con il rinvio a giudizio, o perlomeno quantomeno con. Quindi c'è una violazione, secondo lei? Secondo me c'è una violazione. Io sono contrario alla sanzione penale per tutto ciò che riguarda la libertà di stampa, tendenzialmente, salvo la tutela dell'onore e della dignità delle persone. Le norme oggi sarebbero queste. Poi si discute, qualcuno dice non sono atti processuali, sono atti che vengono compiuti, come dire, di indagine, ma non riconducibili. Però io dico, francamente, e ritorno con quell'aspetto, con quell'ascoltatore, insomma, l'agonia mediatica, è difficile liberarsi dell'agonia mediatica. Si immagini i figli che vanno a scuola, i figli di Bertolaso oggi, la moglie di Bertolaso oggi, e poi, come lei giustamente osservava, ma domani invece si scopre che erano normali massaggi. Non lo so, magari invece no. Ho 20 secondi, senatore Pardi, ha sentito, su Birbantelli, non c'è Tangentopoli, Birbantelli, no? Quelli che rubano. Certo, Berlusconi non è certo il più adatto a parlare di queste cose, lui si è autoridotto il reato di falso in bilancio, adesso promette di inasprire le pene per la corruzione. Se l'avesse fatto prima non sarebbe riuscito a sfuggire ai suoi stessi processi per corruzione della magistratura, da cui è uscito sperigrotto della cuffia soltanto con le prescrizioni o con altri trucchi. Quindi quando Berlusconi promette le cose di questo tipo non va preso sul serio. Il problema è la libertà di stampa. Secondo me mi fa piacere che Pecorella riconosca, diciamo così, l'eccesso di chiusura della formula uscita dalla Camera. La cosa fondamentale è garantire la libertà di stampa. Non si può teorizzare che ciò che succede tra gli affari e la politica non deve essere saputo da nessuno. C'è ogni tanto il rischio dell'agonia mediatica, però guardate, anche l'agonia mediatica è esagerata e gonfiata dagli organi di stampa interessati a farlo. No, ma ne discuterete in Senato. Io mi devo davvero fermare perché già sforato qualche secondo. Do la linea a Oscar Giannino, grazie a Fiorenza Sarzanini, senatore Pardi, l'onorevole Pecorella, in redazione come al solito Sara Spreafico e Peter Bescapè in regia. Ci ritroviamo noi lunedì mattina.